Celebriamo la resurrezione di Cristo. Che bello, siamo qui per celebrare un Dio che è vivente, che è morto ma è risorto il terzo giorno, è vivo, è in mezzo a noi. Questo significa che Lui ascolta, che Lui parla, che Lui agisce ancora oggi, perché è il risorto Re. Amen. Alleluia. Allora vogliamo accomodarci, io voglio incoraggiarci, è proprio un brevissimo messaggio di incoraggiamento per noi. E il mio messaggio di incoraggiamento questa mattina è il seguente: potete rimanere qui, potete rimanere perché sarò talmente breve che poi andiamo a pregare, ad adorare di nuovo e poi avremo un altro momento molto bello insieme. Però qual è il mio messaggio di incoraggiamento questa mattina? Che Dio è vicino, che Gesù è vicino, che Lui è così vicino che è proprio qui. Lui è così vicino che sebbene tu non lo possa vedere, non lo possa toccare in questo momento, Lui è proprio qui a fianco a te. Quanti ci credono? Ed è qualcosa a cui credere. E quindi il mio incoraggiamento è proprio un incoraggiamento alla tua fede, al tuo credere, perché ci sono altre voci che vogliono intaccare questa verità, vogliono adombrare questa verità, vogliono mettere una nebbia, un mistero in questa verità, quando invece mistero e nebbia non c'è. Quello che Dio dice, quello che Lui promette, Lui mantiene, e Lui dice che è vicino. E sapete, ci sono diversi versi, tre versi che voglio considerare con voi. Il primo è in Deuteronomio, sono le ultime parole di Mosè, rivolto a un popolo che è in viaggio verso la destinazione della terra promessa, ed è esattamente quello che il popolo di Dio è. È un popolo in viaggio, è un popolo in movimento. La Chiesa, la nostra Chiesa, la Chiesa di Cristo Gesù, è un popolo in cammino, in viaggio. Verso dove? Verso la terra promessa. E nel frattempo gode di ogni altra promessa che Dio dà, perché nel percorso, nel tragitto, Dio ha delle promesse che mantiene. Non sono lì solo nella destinazione, sono anche nel percorso. E Mosè dice queste parole meravigliose, dice al popolo di Israele: il Signore cammina egli stesso davanti a te. Egli stesso cammina davanti a te. Egli stesso si prende la briga di condurvi con la sua stessa presenza, ed è Lui che è davanti a te. Chiesa, Dio stesso cammina davanti a noi. Amen. Siamo un popolo che cammina, ma ben orientato, perché ha una guida, e la guida ferma e sicura è Cristo Gesù. Alleluia. E Lui è qui e ci guida. Egli sarà con te. Promessa. Egli sarà con te, popolo di Dio. Dio sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. E qui aggiunge aspetti proprio per eliminare i dubbi, per eliminare le bugie del diavolo. Oh, quanto è bugiardo il diavolo! Quanto è bugiardo il diavolo e quanto è instancabile nel riproporre questa bugia. Dio ti ha lasciato. Dio ti ha dimenticato, Dio ti ha abbandonato, Dio per te non c'è. Ora non so come te lo dice, non so nello specifico che linguaggio astuto e furbo il maligno adopera per la tua vita, ma la bugia è sempre la stessa ed è in opposizione alla verità delle promesse di Dio. Dio dice: io sono con te. Il diavolo in tutti i modi ti farà credere che questo non è vero, ma è un bugiardo. La verità è che Dio è con te. Questo è il mio incoraggiamento questa mattina. Egli non ti lascia, Egli non ti abbandona. Non temere, non perderti d'animo. Non temere e non perderti d'animo. Non temere e non perderti d'animo. Gesù, vi ricordate? Alla fine del Vangelo di Matteo, le sue ultimissime parole ai discepoli, dopo aver affidato loro il grande mandato che tutti conosciamo molto bene, dice così: ecco, io non è Marco 20:20, è Matteo, ecco io sono con voi tutti i giorni, tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Tutti i giorni. È Gesù che lo dice. La verità non mente, non esagera. Non è come noi che cerca di dire 100 per ottenere 80 o 70. Non è che fa un'esagerazione di dire tutti i giorni, così almeno ci credete un po' che qualche giorno sono con voi. No, se Gesù dice io sarò con voi tutti i giorni, questo significa che tutti i giorni Lui è con te, che tutti i giorni Lui è con me. Non importa che giorno è. Questo forse può essere il giorno più buio della tua vita. Quel giorno è tra tutti i giorni. E Lui rimane con te, anche se le circostanze sono avverse, anche se questo giorno lo cancelleresti, o c'è stato un giorno in questa settimana che cancelleresti, o dove hai percepito che Dio era più lontano che mai. Bugia! Lui è con noi tutti i giorni fino alla fine. Fino alla fine, dice. Non è che a un certo punto ci sono dei momenti o delle stagioni verso la fine, quando diventa un po' più difficile, che io mi distanzio da voi. No, io sono con voi, dice Gesù, tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Ma che verità, che promessa! Posso scuoterti questa mattina e dirti Dio ti ama davvero tanto, e Lui dice io voglio starti vicino sempre e comunque, ti sarò sempre e comunque vicino. Però invita noi ad avere fede in questo, a non credere alla bugia del maligno che cerca di dirci oh, ma questo non è il giorno che Dio è vicino a me. No, no, no, lui è ogni giorno, tutti i giorni con noi. Ultimo verso è il Salmo 34. L'ultimo verso lo voglio legare un attimino a Deuteronomio, no? Quando dice non perderti d'animo. Perché vedete, quando ci sono circostanze avverse, noi siamo persone che vivono di emozioni e di sensazioni, no? E quindi quando ci sono circostanze avverse, c'è una brutta notizia, affrontiamo delle difficoltà, le emozioni che viviamo parlano. E quindi non è sempre il maligno che come bugiardo cerca di farci credere che Dio è distante, ma anche le nostre emozioni parlano alla nostra mente. E quindi se ti senti amareggiato, l'amarezza ha una voce. Se ti senti confuso, la confusione ha una voce. Se ti senti deluso, la delusione ha una voce. Se ti senti impaurito o in ansia, oh, l'ansia, che voce che ha. È una voce troppo, troppo, troppo forte. Però quella voce, per noi figli di Dio, è solo una voce a cui abbassare il volume. E lo facciamo alzando il volume delle promesse di Dio. Più alzi il volume delle promesse di Dio, ed è quello che sto cercando di fare questa mattina con il mio incoraggiamento, più alzi il volume delle promesse di Dio, più nonostante c'è quella voce che continua a voler farsi sentire, non ha il potere sulla tua giornata, perché c'è la voce della promessa di Dio che prevale e mette a tacere e abbassa il volume dell'ansia, della paura. E quindi Gesù, Dio, nella sua misericordia, nel suo amore, proprio per farci comprendere che la tristezza, l'abbattimento, le difficoltà non devono prevalere, dice questo verso meraviglioso nel Salmo 34: il Signore è vicino a chi? A tutti è vicino, tutti i giorni, a tutto il suo popolo. L'abbiamo letto. Però in questo verso Dio dice il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, perché quelli che hanno il cuore afflitto hanno bisogno di sentirsi dire in modo particolare che Dio è proprio vicino a loro. E quindi se tu questa mattina hai il cuore afflitto, io voglio dirti, c'è un verso a te dedicato, proprio per farti comprendere che Dio non sta promettendo questo alla parte sana del suo popolo, alla parte fiduciosa del suo popolo, alla parte vigorosa del suo popolo, alla parte del popolo che prospera, alla parte del popolo che non ha problemi. Dio sta con questo verso dicendo: no, no, no, io proprio a quella parte che è afflitta dico: io sono vicino, io sono vicino. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Lui è qui per far sentire la sua presenza, per incoraggiarti ad avere fede e per dirti: io ci sono e sono vicino. Vuoi venire vicino a me, figlio mio, figlia mia? Vuoi abbracciarmi? Vuoi stringerti a me? Perché io ci sono. Dio è misericordioso e buono, e Lui questa mattina vuole abbracciarti. Alleluia. Alleluia. Allora vogliamo alzarci in piedi. È la Sua presenza. Quanto è di aiuto quando chiudiamo gli occhi e non guardiamo a destra e a sinistra? Quanto è d'aiuto quando chiudiamo gli occhi e non ci lasciamo distrarre da chi ci sta davanti, da chi ci sta dietro, dal movimento che si può creare? Quanto è d'aiuto chiudere gli occhi e sapere che nel buio dei nostri occhi chiusi possiamo vedere meglio la presenza di un Dio che è visibile nel buio, che è visibile quando abbassiamo il volume delle altre voci, è udibile quando abbassiamo il volume delle altre voci, ed è visibile nel momento in cui chiudiamo i nostri occhi e non guardiamo a nient'altro se non a Lui. E allora con gli occhi chiusi, se hai libertà di farlo, stringiti a Lui. Stringiti a Lui. Nella tua afflizione, nella tua paura, nella tua ansia, nel tuo esserti sentito magari in questi giorni lontano da Dio, o in questi mesi, o non so da quanto tempo sei lontano da Lui. Ora, questo è l'appuntamento che Dio ha stabilito, questo è il momento, qui e ora il Signore ti sta dicendo: io ti sono vicino, figlio mio, figlia mia. E allora, mentre adesso adoriamo ancora il Signore, vogliamo stringerci a Lui. Fai la tua preghiera. Abbandona il tuo peso a Lui. Rimettiti nelle sue mani, perché Lui è qui. Alleluia. A te ci stringiamo. Nessuno sia confuso, che i nemici non trionfino su di noi, Signore. Via il bugiardo nel nome di Gesù, via con le sue bugie, via, via ora, ti rifiutiamo, ti rigettiamo, ti allontaniamo, via, via, via sentimenti di solitudine, via sentimenti di rigetto, di abbandono, via nel nome di Gesù in questo momento, via, via, perché il Signore, il nostro Dio, è qui. Lo confessiamo perché lo crediamo e perché sappiamo che sei qui, Signore, e sei qui per noi. Alleluia, alleluia. E chiunque è afflitto pare che possa sentire il tuo abbraccio, il tuo conforto in questo momento.